anche stamattina andiamo a leggere i giornali di Milano, ma anche quelli di Roma, di Napoli. E me ci mettiamo pure quello della Sicilia, perché queste cose fanno schifo quello della Sicilia. 24 mattino. Signori, sono le 7 e 16 minuti. Come sapete, questo è lo spazio dedicato alla rassegna stampa. Ma oggi la rassegna stampa non c'è, una rassegna stampa particolare. E perché non c'è la rassegna stampa? Vediamo un po' se siete spigliati, voi che siete rallentati dai vostri pontoni. Perché non ci sono i giornali? Ovviamente, primo maggio ieri, e quindi i giornali oggi non sono in edicola. Non li troverete, eppure noi allora parliamo noi di che cosa? Di varie notizie, di varie cose, di tutto quello che ci è successo nel weekend. Insomma, siamo con degli ospiti, facciamo una rassegna stampa particolare. Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh? Ti va se dopo la partita facciamo l'amore? O quando un po' di tempo cuciniamo una torta e la mangiamo da nudi, ma solo se ti va. Ti va di comprarmi un vestito, niente di appariscente, giusto un po' elegante per le occasioni speciali, matrimoni e funerali. Il ministro del lavoro Poletti ha dichiarato che si trova lavoro di più giocando a calcetto che mandando in giro dei curriculum. Il calcetto è, se volete, la metafora della relazione sociale, ok? Grazie davvero. Parlare di lavoro è molto difficile, parlare d'amore e di rapporti è quasi impossibile. Ad esempio, se è vero, come ha detto Matteo Salvini, che da una coppia omosessuale non può che crescere un ragazzo con handicap, è anche vero che da una coppia eterosessuale è cresciuto Matteo Salvini. Vabbè signori, alle 7:20 minuti abbiamo assistito anche alla tradizione del concertone del primo maggio. Costoro sono lo Stato sociale, che da Bologna se la prendono col ministro Poletti scagliando un po' di palloni da calcio sul pubblico, in metafora con la vicenda del ministro che diceva del calcetto per trovare il posto di lavoro. Poi hanno anche un po' storpiato una dichiarazione di Salvini, peraltro a Radio 24 un anno e mezzo fa Salvini aveva detto che da una coppia omosessuale nasce un bambino con l'handicap, nel senso non handicappato, non disabile, ma con un handicap in senso figurativo. E va bene. E Ale, dai, abbiamo visto anche questo primo maggio e questo concertone. Cioè io non l'ho visto, perché da manco mezzo secondo come al solito. Però abbiamo assistito anche a questo, Allora, parleremo un po' delle varie notizie del giorno. Di Renzi che è ridiventato segretario del Partito Democratico. Se volete di altre cose. E lo faccio con due ospiti che saluto. Intanto una che ha visto tutto minuti, tutti i secondi, l'ha rivisto, l'ha registrato, l'ha rivisto anche stanotte il concertone del primo maggio, la nostra comunistona Veronica Gentili, che saluto. Buongiorno, ciao Veronica. Buongiorno. O eri lì in prima fila? No, non ero lì, però posso dirti, senza dare troppe notizie, che me ne sono arrivati gli echi tutto il giorno da casa, quindi va bene lo stesso. Ecco, quando sentivo una canzone che mi piaceva, accendevo per vederla. Cioè praticamente o aprivi la finestra per vederla. E questo mi fa capire un po' la comunistona Veronica Gentili. Non va in piazza il primo maggio dalla finestra lei, perché sono questi comunisti adesso un po' così. Non esageriamo, noi siamo la goscariana. Noi ecco, li ascoltiamo seduti comodamente dal divano di casa, mica ci spostiamo le mani in piazza. Detto questo, tu mi inizi con le polemiche del primo maggio, quindi mi muore la sinistra, lasciami andare il primo maggio. Mi muore la sinistra, dai. Allora va bene, su mi muore la sinistra voglio salutare il direttore di oggi, Umberto Brindani. Ciao direttore, eccoci ciao, qua. Ciao Veronica, ciao Alessandro. Buongiorno. Mi muore la sinistra, caro Umberto Brindani. Chissà che cosa faceva riferimento. No, vogliamo no infatti non vogliamo partire dal primo maggio, no. Perché dalla notizia che tutti i giornali metterebbero in prima pagina, l'hanno messa ieri. Se ci fossero, ovviamente. Oggi se facciamo il top giornali, cosa scriverebbero? Se ci fossero. Ecco, Umberto Brindani, tu apriresti ancora per il secondo giorno consecutivo con Renzi che è tornato alla segreteria del Partito Democratico? Ma non so, aprirei su Hamas che vuole riconoscere Israele, aprirei sulla Juventus. Oh mamma. Non mi occuperei di Renzi. Non ti occuperesti di Renzi. Tanto sarebbe tranquillo perché lo faccio io. Sarebbe tranquillo perché ci sarebbe sempre una Veronica Gentile, capito? All'interno di una redazione. Perché ci sono io, uno sa, no? Che può stare tranquillo. Vabbè, però qualcosa di Renzi dobbiamo dire, no? Adesso non è che possiamo... ha riconquistato... cosa lo possiamo dire? 70% è tornato a capo del Partito Democratico e quindi... Ha preso 850.000 voti in più, votanti in più di quelli che aveva pronosticato, no? Aveva detto basterebbe 1 milione, ha preso quasi 2 milioni, 71%. Insomma, è una conferma. Io devo dire che non me l'aspettavo, insomma, mi aspettavo prima di tutto meno votanti e mi aspettavo che Orlando prendesse qualche votarello in più, diciamo. Invece il popolo del PD ha riconfermato. E quindi riparte, il nostro Matteo riparte. Matteo riparte, beh, questo non è male come titolo, eh? Oggi potrebbe essere questo il primo titolo di prima pagina, Matteo riparte, eh? Dopo c'era Matteo risponde, esatto. C'era Matteo riparte. No, devo dire che effettivamente Veronica, almeno il dato dei quasi 2 milioni di votanti, è un dato, sì, Renzi era stato al ribasso, ovviamente aveva giocato al ribasso dicendo basta 1 milione, era terrorizzato dal ponte, dal primo maggio, dalle questioni, insomma... Beh, c'era un'area mefitica intorno, sì, alle primarie, diciamo la verità. Esatto, e quindi se non altro il dato dell'affluenza alle urne da parte di quelli che sono andati a votare è un dato buono, no Veronica? Allora, sciocchina mia, io sì, mi sforzerò adesso con grande impegno di non essere faziosa, perché altrimenti poi mi si dice che quando c'è Renzi io non sono di lucida. Quindi è assolutamente vero, Renzi ha registrato il suo consenso e da questo momento ha assolutamente, definitivamente scalzato gli avversari e ha fatto un'opa sul Partito Democratico, per cui si può dire che il Partito Democratico gli appartiene. Detto questo, però, diciamo che si tratta di 1 milione di elettori in meno rispetto a quelli che c'erano nel 2013, quindi tanti, cioè sostanzialmente lui ha preso 1 voto su 3 in meno rispetto a quelli che prese, sì, allora, ok? E questo è molto. Stiamo parlando sempre di primarie, non è che stiamo parlando di primarie. Nelle urne. Figurati, per le urne lui non ci è passato proprio, quindi problemi non ne ha. Quando un giorno ci passerà, poi lo capiremo. Per ora siamo alle primarie e nei fatti, i fatti dicono questo. Quindi con queste primarie in più, in tutte quelle che sono le regioni rosse per antonomasia, quindi l'Emilia Romagna, sì, la Toscana, l'Umbria, le Marche, si può dire che il voto, cioè l'affluenza si è dimezzata più o meno. Cioè dove il 47% in meno di voti, dove il 46,4%, in Umbria il 43%, nelle Marche quasi il 50%. Quindi tanti, tanti voti in meno. Il che significa, volendo fare un'analisi seriamente lucida, che c'è una enorme fetta di persone che, sì, si è disaffezionata alla sinistra e non è andata a votare alle primarie. Queste persone sono quelle che facevano ancora parte del Partito Democratico nel 2013 e che oggi non appartengono più a quella fetta perché il Partito Democratico si è oggettivamente ricollocato da un'altra parte. Cioè, se vogliamo essere che forse ironici, che forse è quello che voleva Renzi. No, era forse quello che voleva Renzi. Il cosiddetto PDR, al di là poi dei giochi, del fatto che è un partito personale, ma è un partito che ha sicuramente una direzione politica diversa da quello stesso schieramento che si è candidato alle elezioni del 2013 con Bersani, che prese i voti con i quali ancora adesso oggi Renzi ha la maggioranza relativa. Allora, adesso perlomeno uno degli aspetti positivi di queste primarie è che abbiamo ridelineato il perimetro politico all'interno del quale partito, ci muoviamo. Del Partito Democratico. Oh, caro direttore, ti piace questa analisi? No, poi la gente vuole sapere se, secondo me la domanda chiave è se Renzi, tornato segretario del Partito Democratico, ora applicherà la tattica del Gentiloni, stai sereno, oppure no? Questo per far capire, no? Cioè se appoggerà il governo oppure vorrà spingere per le elezioni il prima possibile con questa legge elettorale, con una legge elettorale corretta, non lo so, queste sono cose barbosissime, ecco. Beh, intanto è lievemente faziosa l'analisi di Veronica, ma è giusta, cioè, se non altro questo è, il fatto che ci siano un po' di votanti in meno è un elemento di chiarezza, insomma, dopo la scissione. Sì, c'era anche il ponte, vogliamo, cioè, il ponte sicuramente ha distolto l'attenzione. Siamo italiani, però, siamo pur sempre italiani. Però non vorrei che leggessimo sempre il fenomeno così buttandola in cacciara. Ma no, ma non è quel cacciara, cioè ci saranno anche, era lo stesso Renzi che era preoccupato, ci saranno molte persone che il 30 aprile non avevano come prima intenzione quella di andare a votare alle primarie del Partito Democratico, ecco, tutto qua. Detto questo, noi sappiamo perfettamente che alle primarie dei socialisti francesi, che sono state un'altra cosa molto importante, Hamon, che non era considerato plausibile perché insomma troppo schierato a sinistra, già figura ha vinto, e i socialisti si sono schiantati prendendo il 6%. Ma questo, ma infatti questo non è, cioè, vedremo. Quando sono molto relative. Quando vedremo poi le primarie del Movimento 5 Stelle o le primarie di Forza Italia o le primarie di... Però tu sai bene che a me non riguardano né le primarie del Movimento 5 Stelle né quelle di Forza Italia. Io mi limito perché sennò ogni volta le risposte che vediamo, la gente ti dà, hai capito? Forza Italia, del resto, ci riflettevo ieri, non fanno le primarie per una ragione molto semplice: li possiamo accusare di quello che vogliono, ma finché c'è un leader consacrato da tutti e nessuno gli vuole rivendicare la leadership, quello è bene a non farle. No, però volevo capire, Brindari, questa era lievemente faziosa, ma... No, dicevo, lievemente faziosa, ma corretta, perché diceva un elemento di chiarezza. Adesso si capisce, dopo l'uscita di Bersani, D'Alema e degli altri, qual è il metodo del PD, che resta comunque un partito che si aggira, secondo ancora i sondaggi, intorno al 30%, quindi il primo partito o secondo partito italiano. Poi c'è stato il ponte, ci sono mille ragioni per cui ci sono votanti in meno, non è che non mi metterei a fare come quelli che dicono ho vinto o mezzo vinto. No, ma chi se ne ha preso quasi 2 milioni di voti. Si no, ma infatti ha vinto. Lo step successivo sull'affluenza, sulle zone, è uno step in più, perché chiaramente poi uno fa un'analisi del voto e cerca di capirne tutte le informazioni che può, ma che Renzi abbia stravinto all'interno del Partito Democratico. Ma infatti, ma questo è il dato di fatto, cioè io voglio capire, nel 2013 l'ha portato, ma ho capito, ma io voglio capire che farà dopo, cioè adesso già le analisi sono noiosissime, le analisi del voto quando si vota per le politiche. Figurarsi per la prossima volta chiamami per commentare Ballando con le Stelle, sciocchina, abbi pazienza. Se vuoi dopo ti faccio commentare. Oggi guarda che mi sono tenuto, ci sarà un commento su Kim Kardashian, che ti credi? Più tardi. Se mi chiedi a commentare le cose serie, io ti commento le cose serie. Se vuoi parlare delle primarie, io questo faccio. No, però Brindari, la domanda che rimane è: cosa farà Renzi adesso? Questo lo sa solo lui, naturalmente. Dobbiamo registrare però che l'orizzonte della legislatura, stando al vice segretario Martina, che è il vice segretario unico, sarà il vice segretario unico, è il 2018, quindi continuerà a lavorare con il governo Gentiloni, anche perché non dimentichiamo che manca la benedetta legge elettorale che il Presidente della Repubblica continua a invocare. Ma quindi mancherà anche nel 2018, secondo me. Fino a prova contraria si voterà nel 2018, cioè non è che possiamo adesso fare il processo alle intenzioni e ogni due giorni dire sì, ma adesso Renzi andrà a votare, si voterà a figurarsi, ma tu sei direttore di un giornale, ci sono i retroscenisti, caro Brindani, da domani saranno a far trapelare le piccole veline. Renzi dice ai suoi forse il 5 novembre, Renzi dice ai suoi forse il 4 dicembre, no, il 4 dicembre porta sfiga, Renzi dice ai suoi forse un'altra data, dobbiamo andare a votare. Ma è inutile che tu difendi i lavoratori e poi te la prendi con i poveri retroscenisti, no. Che devo figurati, io non me la prendo con nessuno. Comunque, italiani, ha deciso Umberto Brindani, direttore di Oggi, si andrà a votare nel 2018, quindi potete stare tranquilli e sereni. State sereni, italiani, state sereni, non si vota. tra due giorni già stanno montando i seggi per diciamo andare. Così è evidente che io li vedo già qui sotto, vedo già della gente che si muove. Arriva un messaggio: io e mia moglie eravamo registrati ma siamo tornati dal ponte, eravamo stanchi e ce ne siamo fregati e non abbiamo votato, ecco. Però ti prego, il signore ci mandi un altro messaggio e ci dica cosa avrebbe votato. Va bene, per favore, ci mandi, allora, come si chiama il signore? Non lo so, aspetta, Ale. Ale, per favore, dici che cosa avresti votato se fossi tornato in tempo. Dici cosa avrebbe votato anche tua moglie, tanto si sa che il voto non è segreto, ve lo dicevate. Allora, dai, tra un attimo rientriamo dopo la pubblicità in questa rassegna stampa virtuale senza giornali. Le dichiarazioni del procuratore di Catania lanciano un allarme gravissimo. Noi abbiamo un procuratore che ci dice: io ho le certezze di rapporti tra scafisti e alcune ONG, ma non posso utilizzarle come prove. Allora, un procuratore che lancia un allarme del genere dovrebbe avere il sostegno di tutta la politica italiana. È vergognoso che il ministro della giustizia invece ieri metta in dubbio quello che sta facendo un procuratore. Anche Roberto Saviano, che ha scritto libri meritori utilizzando proprio gli atti dei PM, ieri mette in dubbio il lavoro di un PM. Questo è Di Maio, adesso ne parliamo. Però, signori, siamo qui con Umberto Brindani, direttore di Oggi, e con Veronica Gentili del Fatto Quotidiano. Allora, Ale ci ha risposto: avrei votato Renzi, ma si è aggiunta Stefania, ero via per il ponte, avrei votato Renzi. Cioè, si è aggiunto Sergio, non sono riuscito a votare, ma avrei votato Renzi. Non sono andato per Renzi, avrei votato per Renzi. Massimo, io e la mia fidanzata avremmo votato Renzi, ma abbiamo preferito un bel pescetto a Ostia. Qua Brindani, adesso ce ne ricontiamo per il ponte, arriva a 2,5 milioni. Sì, all'80%. Dobbiamo stare attenti, capito? Beh, no, ecco, questo va benissimo, è buono a saperti. Per questo uno fa i sondaggi e capisce bene che cosa ti dicono le persone. Quindi il ponte è stato oggettivamente un deterrente. Allora, signori, però abbiamo fatto sentire la dichiarazione di Di Maio, io l'ho già detto alle 6.30, la cosa che non sopporto è questo tifo da stadio anche su questa cosa delle ONG. Io ho letto il tuo tweet, sciocchina, per una volta ho pensato che la sciocchina avesse detto una cosa saggia. Ecco, siamo a 4 però, insomma, intanto... Sono stata gridata dai vari figure di Twitter che hanno detto che avevi detto un'idiozia e che io ti vengo dietro. In realtà... Io ero molto d'accordo. Tra l'altro, c'è questa cosa, non so se avete sentito, Brindani, non so se hai sentito Di Maio, dice: siccome c'è un procuratore che dice che ha degli elementi che però non può utilizzare, facciamo una legge per poter far utilizzare questi... No, in Italia bisogna sempre normare, fare una legge nuova. Però questa cosa è una cosa che ha diviso in steccati gli italiani. Adesso bisogna dire che le ONG o sono il diavolo o sono i santi che non possono essere toccati. È così, in Italia dividiamo sempre così. Guarda, come al solito bisogna poi attenersi ai fatti, perché questa è una cosa molto, molto seria, altro che le primarie del PD. Io, il mio giornale, l'Oggi, noi parliamo di questa cosa dal 12 gennaio scorso, perché è da mesi che si sa, che si è scoperto, che si è capito che alcune navi vanno a soccorrere i migranti a poche miglia dalla costa della Libia. E vengono chiamate direttamente, e insomma c'è un traffico, diciamo così, non chiaro, è una cosa diversa da quella che tutti noi pensavamo avvenisse in quel tratto di mare. Ora, questo procuratore, Zuccaro, ha alcune intercettazioni che gli vengono da servizi segreti olandesi, tedeschi, italiani, eccetera, in cui praticamente c'è un contatto diretto tra alcuni libici e alcune di queste navi. Non può utilizzare queste intercettazioni e quindi ha deciso di rendere pubblica questa cosa. Per una volta sono d'accordo con Di Maio, lasciamogli utilizzare giuridicamente queste intercettazioni, perché altrimenti non si va da nessuna parte. A questo punto cos'è? Noi sappiamo delle cose, però non si possono istruire processi, è assurdo. Sì, c'è da dire che però cosa è successo? Che a questo punto ci si è divisi a dire: vedete, vanno tutti. Io per esempio, ci sono alcune ONG, sigle un po' minori, però non lo so, io metterei la mano sul fuoco sull'onestà di Medici Senza Frontiere, ricordiamo che hanno vinto il Nobel per la pace, sono persone che vanno in tutto il mondo a salvare migliaia, milioni di vite umane. Ma questo lo dice per primo il procuratore Zuccaro e tutti sanno che Medici Senza Frontiere, Save the Children, insomma le ONG, cioè le organizzazioni non governative più consolidate, più serie e più certificate, non stanno affatto facendo nulla di sbagliato, perché si muovono entro i confini delle norme, raccordandosi sempre con la Guardia Costiera Italiana e quant'altro va fatto correttamente. Che però ci possano essere alcuni punti oscuri e che ci possano essere dei business attorno a questa questione terribile, drammatica dei migranti, non possiamo escluderlo per principio. Questo no. E allora, Veronica, perché non lo facciamo lavorare questo zucchero? No, secondo me c'è un discorso di buonsenso che appunto è quello che dicevi tu, cioè non può diventare un discorso da curva sud e curva nord, perché c'è la tematica è troppo seria per trattarla in questo modo. Il procuratore ha fatto delle dichiarazioni che sono delle dichiarazioni volte a svegliare la politica nel dare un'occhiata su coloro a cui in qualche modo ha appaltato la responsabilità della gestione del soccorso dei migranti, perché ci sono moltissime organizzazioni non governative, non soltanto quelle prestigiose che noi conosciamo, che svolgono queste funzioni. Leggevo che quelle in particolare a cui si fa riferimento sono nessuna italiana, tra l'altro, sono una tedesca, spagnole, cose del genere, sono sei in particolare, ed è molto verosimile che ci sia questo, ed è una cosa che è assolutamente da verificare, da controllare, perché rischia di essere appunto controproducente per gli stessi migranti che hanno bisogno di attraversare il mare. Detto questo, il problema principale è l'utilizzo che ne fa la politica, come sempre, perché il riprendere queste affermazioni del procuratore e cominciare a farne un'egida sotto la quale vendere le proprie posizioni politiche è volto unicamente a cercare di prendere consenso elettorale, in un senso e nell'altro. Sì. Allora, che si sappia che le organizzazioni non governative sono fondamentali e che senza queste la quantità di gente che muore in mare sarebbe quadruplicata, stava a San Dir. Ricordiamo, ma sai, tu la dici così, guarda che per molti sono invece anche Di Maio, lo dice, sono, com'è che ha utilizzato l'espressione, funzionano da taxi, funzionano da incentivo a far partire le persone, guarda che la posizione di molti italiani è questa. Le ha chiamati taxi del Mediterraneo, che io trovo un'espressione assolutamente detestabile, proprio inascoltabile, sì, brutta, poi giustificandosi e mettendo le toppe dicendo che era all'interno di un non so dove, so che la stesse citando e che non fosse di sua. Detto questo, alcuni peggio pensano ancora. Appunto, infatti, no, era chiaramente perché si è reso conto lui stesso che era un'espressione inascoltabile. Detto questo, pensano che le organizzazioni non governative siano un incentivo, mi sembra veramente un aspetto grottesco, perché sappiamo perfettamente quanto queste persone rischino tutto e tutti per venire qui. Ma questo sicuramente. No, però mi interessa, Brindani, perché voi ne scrivete da gennaio, e che scrivete? Cioè di questi contatti opachi e che sì, cosa? In realtà di questi sospetti ne ha parlato, credo, per primo il Financial Times. Se n'è occupato anche La Verità, devo dire, perché il primo forse il giornale italiano a occuparsi è La Verità, diretta da Belpietro. Ci sono episodi strani, cioè vi faccio un esempio: sarebbe certificato il fatto che in una certa occasione è partita una telefonata dalla Libia, e cioè dai trafficanti, alla sera di un certo giorno, dando appuntamento a una certa nave il mattino dopo nei pressi delle coste libiche. Allora, questa è una cosa che, se verificata da un procuratore, dalla magistratura, è una cosa gravissima, perché sì, certo. ovviamente l'espressione è chiaro, vuol dire avere a che fare con dei criminali, cioè mettersi d'accordo con dei criminali. Ovviamente l'espressione taxi del mare è, se volete, sbagliata, esagerata e quant'altro, però è ovvio che se succede una cosa di questo tipo non siamo in presenza di navi che vanno in soccorso di migranti che stanno affogando, ma siamo in presenza di un appuntamento, un'organizzazione che direttamente si mette d'accordo per farsi venire a prendere. Ma infatti bisognerebbe chiarire queste cose. Aspetta cara Veronica, perché è il momento in cui noi non ci sono i giornali, ma secondo voi io posso evitare di poter dire meno male che c'è l'Inter, e non l'ha detto Umberto Brindari peraltro, se il ponte per esempio è stato un po' innaffiato, è stato un po' rovinato dalla pioggia, uno può sempre pensare, beh, meno male che c'è l'Inter però. E allora c'è Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, come stai? Ma buongiorno, se posso usurpare un termine altrui, caro sciocchino, bene, bene. Grazie. Sono contento di trovarti così, Larena. Mi fa piacere. Bene, cosa ci vuoi dire oggi? Ti vorrei ricordare, ma non cose banali come queste qui calcistiche, peraltro non mi pare che la squadra tua omonima un pareggino a crotone, cari sciocchini. Allora, vorrei dirti una cosa. Oggi tu chiedevi ma con cosa potrebbero aprire i giornali, ma intanto sul sito del Sole 24 Ore vedi che oggi è il giorno dell'assemblea di Alitalia, si va all'amministrazione straordinaria con tutto quello che ne consegue di certo e di incerto. E poi, caro Alessandro, cari ascoltatori, oggi giornatona perché si può prendere e correggere il 7.30. Oh. Hai visto ieri Sole 24 Ore o hai solo gozzovigliato nell'attesa del concertone? Più o meno. Perché sul Sole 24 Ore di ieri noi abbiamo segnalato una serie di punti critici da verificare sul 7.30 e oggi tra l'altro sul sito sono riproposti, sono spiegati in dettaglio, quindi da oggi il 7.30 è una giornatona per noi. Non c'è, purtroppo, non essendoci solo in individuazione, non c'è la pagina di condominio. So che questo ti dispiacerà parecchio, però come dire, ce ne faremo una ragione. Resisteremo fino alla prossima settimana per la pagina di condominio. E infine, ma non per questo meno importante, ti vorrei segnalare questa indicazione che trovi sul sito del Sole 24 Ore di Maurizio Caprino, che dice: stanno preparando una modifica al codice della strada per ritirare la patente a chi guida usando il cellulare, telefonando col cellulare, naturalmente non con il viva voce, ma tenendo proprio il cellulare. Io spero che il pubblico ministero vada e che il procuratore vada avanti, perché è strano questo PD che difende sempre la magistratura quando gli fa comodo. Quando la magistratura indaga su qualcosa di scomodo lo attacca. Quindi procuratore, se ci guardi, vai avanti perché gli italiani sono con te. Eccolo lì, capito Brindani, capito Gentili, gli italiani sono con te, il tifo. Dopo il aver tifo. Sentito Salvini vedrai che va avanti, eccolo, sicuro. Eccolo, vabbè. Dai ma signori, no, che vuoi dire Umberto? Ma perché dobbiamo sempre buttarla in politica? Allora? Lo so, quello è da due ore io che mi spacco la testa, questo, da due giorni. Invece, punto. Non si potrebbe fare un'indagine seria facendolo lavorare, punto, senza, no, niente. L'unico vero problema, secondo me, è l'opinione pubblica come viene aizzata dai politici contro dei fenomeni che in realtà sono più complessi di come appaiono, e quindi automaticamente si fa questa semplificazione per cui gli ONG diventano questi speculatori che fanno traffici. Io invece ti dirò, per una volta spezzo una lancia, non dico a favore dei politici, ma dico, secondo me intercettano tranquillamente un pensiero che gli italiani hanno già, quello di tifare, no? Perché guarda che, certo, non è che si fanno aizzare dai Salvini, dai Di Maio, dai Renzi, da quello che volete voi, dai Berlusconi, per andare sui social, su Twitter a sparare le loro beep, qua bisognerebbe, no? Cioè hanno bisogno, anche senza i politici, anche senza i talk show, partono e dicono la loro così. I politici hanno o dovrebbero avere una responsabilità diversa, invece in casi seguono, come questo non stiamo parlando di non salvare i disgraziati e i disperati che si lanciano su queste carrette, su questi gommoni, stiamo parlando di colpire chi ci fa business sopra, se c'è qualcuno che ci fa business sopra, invece diventa l'occasione per poter dire basta, ricacciatevi tutti indietro, è sacrosanto, perché in qualche modo è la politica che appalta e dà l'incarico alle ONG di gestire per lei tutta la questione migranti, quindi nel momento in cui io do l'incarico a qualcuno e capisco che quel qualcuno lo utilizza in maniera l'osca anomala irregolare, vado a verificare che cosa sta succedendo. No, io vorrei... questo è l'aspetto che la politica dovrebbe fare. Vorrei negli ultimi minuti in questa rassegna stampa virtuale farvi questa domanda: ma voi siete preoccupati un pochino per quello che sta succedendo in Nord Corea, Stati Uniti? Cioè, perché sembra una cosa talmente lontana anche fisicamente, poi sembra veramente, adesso Trump ha detto incontrerei se fosse necessario Kim Jong-un, sarei che... onorato, ma cioè, sarei onorato, che veramente una maca di Michele Serra tre giorni fa che raccontava di Kim e Trump come Rick e Gian, effettivamente sembra un po' così, Brindani, sembra un po' no, tutta una drammatica barzelletta. Ma te lo vedi Kim e Trump, Kim e Donald? Ma non lo so, no, io sono estremamente preoccupato, perché certo, siamo nelle mani, lasciatemelo dire, non sono un diplomatico di carriera, siamo nelle mani di due pazzi. Mm. E quindi non si sa quello che può venire fuori da questa vicenda, e neppure da un fantomatico futuribile incontro fra i due. Ma te lo immagini l'incontro, non lo so, sul confine tra la... dove si incontra, dove si potrebbero incontrare? In Groenlandia, dove si potrebbero incontrare? No, non lo so. Scusami, ma Sciocchina, noi che abbiamo mancato la festa di Anacleto, non possiamo andare almeno all'incontro tra Kim e Donald? Ecco, secondo me tu puoi fare la controfigura di Trump. Dobbiamo spiegare, eravamo invitati alla festa di Anacleto, nostro ascoltatore che è andato in pensione, eravamo invitati tutti quanti, se volevamo, forse anche Brindani, se capitavi qui quel giorno, invitava tutti quanti. E ci siamo flippati la festa di... È stato un errore comunque. No, comunque insomma c'è da essere molto preoccupati, perché questa è l'apertura anche di molti siti in questo momento. C'è la notizia che Trump annuncia in un'intervista a Bloomberg: se fosse necessario incontrerei, sarei onorato di incontrare Kim Jong-un. Non lo so. Brindani, ha capito che c'è uno più matto di lui? No, vabbè, ma adesso al di là delle battute, qui c'è da... è veramente la cosa che... lo scenario. Ma questo sta schierando tutte le... dopo aver per errore mandato le navi verso l'Australia, adesso le ha dirette verso la Corea del Nord, sperando sommergibili nucleari. È una cosa che riporta a, non so, 50 anni fa, ai tempi della crisi di Cuba, che non si solo una situazione del genere. Solo che in questo caso i protagonisti sembrano un po' meno, come dire, un po' meno padroni di se stessi. Sì, ma infatti al di là degli scherzi, guarda che secondo me in questa vicenda i caratteri personali incidono sì. Cioè non è una di quelle questioni in cui dici, sai, chi è poi il presidente degli Stati Uniti, chi è il leader coreano non incide, perché chiaro. Comunque il carattere di Kim Jong-un un po' d'ansia la mette, cioè una figura abbastanza così imprevedibile, ecco, per usare un eufemismo. Sì, per concludere invece in questo minuto, avevo annunciato, c'è questa notizia legata a Kim Kardashian, sì, non sorridete, perché Kim Kardashian è stata immortalata da un paparazzo in Messico, e come dire, caro Brindani, una foto rivelatrice, ha un po' di cellulite, ed è normale, solo che non è normale per lei, che si posta in tutte le foto con questo culone perfetto, per cui è stata accusata di usare Photoshop, e soprattutto sapete che è successo? Dopo quella foto 100.000 follower l'hanno abbandonata, cioè quelli che la seguono su Instagram. Sì, perché c'è, traditi, delusi. C'è il problema della cellulite, ma anche la superficie sulla quale la cellulite si applica. Sì, cioè, evidentemente, capito, Veronica? Delusi perché la seguivano per i suoi. Ma tu non cogli i dettagli. Sì. Umberto, perché il problema della superficie su cui la cellulite si applica? Perché è ampia, forse. Facci spiegare meglio. Dalle vere fonti è ampia, ma a me ha colpito 100.000 però, l'hanno abbandonato, 100.000 che la seguivano per il suo intelletto, per la sua, ecco, per questo volevo dire, diciamo, ecco appunto, che se la Kardashian viene seguita di solito è per le massime di vita che dà, esatto. Per le sue sottili analisi, disamine di quello che accade esatto. nel mondo, e dunque quindi... per quale motivo la gente si sia in qualche modo mossa davanti al fenomeno della cellulite è alquanto inspiegabile. Comunque nel voler ringraziare Veronica Gentili e Umberto Brindani, direttore di Oggi, per questa rassegna stampa virtuale, do il titolo che darebbero oggi i giornali per la notizia: più importante della giornata, cioè 100.000 follower abbandonano Kim Kardashian per la sua cellulite. Ma chi se ne frega!